bahang saiki loro loro merko ati ketaton ketaton rasa kakun ojo dipendem Riko Riko hang saiki linglung linglung merko sing kuyat mahan nenes ring dodo